Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna. Oggi parliamo, la prima parte del programma parlerà di Non è un sospiro di uomo in agonia, ma si tratta di High Frequency Galactic Aurora Research Project. Allora no. Poi di quello che c'è collegato, le famose scie chimiche che stanno impazzando su tutti i blog, siamo tutti molto preoccupati da quest'altro fenomeno connesso, e certi morbi collegati a questi altri fenomeni. Ho capito. Allora, introduciamo l'argomento di oggi velocemente, proprio in pillola. Allora, l'ARP è un sistema inventato dal fisico statunitense Bernard J. Eastlund, scienziato finanziato da privati militari, che pensa a mantenere sta cosa costa ben $4,000 l'ora. Chiudiamo la parentesi. Nato come progetto del Dipartimento della Difesa statunitense, coordinato dalla Marina e dall'Aviazione, è considerato il nucleo del programma Guerre Stellari. Avviato sotto le amministrazioni Reagan-Bush negli anni '80, ARP ha sede a Gakona in Alaska. Insomma, hanno seminato certi punti strategici del nostro pianeta, solitamente in zone militari, di antenne molto particolari che sparerebbero con potenzialità enormi degli irraggiamenti verso il cielo, con la funzione di modificarne il clima. Addirittura. Sì, all'inizio è nato un po' come progetto militare sfruttabile, ci hanno studiato su, e poi probabilmente è diventato qualcosa di molto di più e di molto più pericoloso. Allora il clima è grazie a questa cavolata che stanno facendo loro? Molti scienziati, molti studiosi sono convinti che c'è un collegamento tra tutti questi disastri, altro che 2012 che si avvicina, Nibiru, certo, eccetera, certo. Ma sarebbero sconvolgimenti causati, tanto per cambiare, da quell'animalaccio che è l'uomo. Parlando sempre di questo progetto ARP, che sarebbe in grado di scaldare vaste zone della ionosfera immettendo elevate quantità di energia, far rimbalzare onde elettromagnetiche capaci di penetrare qualsiasi cosa vivente e o morta indietro su determinate località della Terra. Insomma, userebbero la ionosfera per guadagnare terreno e sparare queste onde in determinate località della Terra. Questo sarebbe un po' l'uso militare segretissimo. Ma scusa. Comunque abbiamo adesso un file da ascoltare velocemente. Attenzione, Beppe Grillo, ascoltate. Che passa dice perché non parli, è colpa tutta. Tutta colpa delle scie chimiche. Parla delle scie chimiche. Le abbiamo fotografate. Stanno cambiando il clima gli americani con le scie chimiche. Poi arriva un altro e dice: come mai nessuno parla della fusione fredda? Che fine ha fatto? Preparata e morto? Chi l'ha ammazzato? E se ne va. C'è tutta gente, l'OGM, parla dell'OGM. Siamo in una fase maniacale dell'ambientalismo ormai sensazionalistico. Avete sentito? Non le manda certo a dire Beppe, eh? Ma insomma, lui si è discostato un po' dal problema, ha detto la sua. Sì, così. Sicuramente io penso che si sarà ricreduto, perché questa dichiarazione comunque ha qualche anno dietro. Comunque abbiamo adesso in linea questa persona che stavamo aspettando, il signor Rosario. Pronto, Rosario? Buongiorno. Buongiorno a lei. Anzitutto va detto che il signor Marcianò, Rosario per noi, spero che ce lo conceda. Sì. Grazie. E è un esperto, secondo noi, il più autorevole, almeno in Italia, su questo fenomeno. Lei è ritenuto il maggior esperto, almeno in Italia, sull'argomento scie chimiche, ORP. Argomenti. Probabilmente, mio malgrado. Adesso con esso. Se non altro, secondo noi, è l'unico che se ne è occupato esponendosi parecchio. Sì, effettivamente su questo argomento non bisogna avere peli sulla lingua, altrimenti tanto vale rinunciare. Certo. Molto giusto. Quindi il suo sito tankerenemy.com, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori che gli interessasse, espone tutte queste tematiche. Entriamo subito nel vivo. Allora, cosa sono queste scie chimiche? Perché sono diverse dalle altre? E dov'è che sono state rilevate di più? Ma l'osservazione delle scie chimiche, partiamo dall'ultima domanda, ufficialmente parte dalla metà degli anni 90, ma è anche vero, andando ad analizzare vecchi documentari e film, che si può rilevare come queste operazioni clandestine di geoingegneria o per altri motivi che poi si potrebbero anche descrivere, sono iniziate già alla fine degli anni 60. E comunque ci sono brevetti sulla modificazione climatica che risalgono alla metà degli anni 40, dalla metà degli anni 40, per cui non ci sono limitazioni per quanto riguarda una data di inizio. Poi chiaramente si può sicuramente affermare con sicumera che non si tratta di fenomeno di condensazione, perché la prima osservazione che possiamo rilevare è che questi aerei rilasciano scie ad altezza cumulo. Sì. I cumuli sono delle nubi cosiddette da bel tempo che stanziano a quote basse, comprese tra i 700 e i 2300 metri, e a quelle quote, a queste latitudini, non è possibile assolutamente che si possa formare qualsiasi fenomeno di condensazione. Quindi quelle che vediamo noi, che siano persistenti o meno, non importa, sono scie chimiche, o comunque si tratta di rilascio di sostanze chimiche o biologiche o entrambe in atmosfera, e non si tratta del fenomeno della condensazione, che voglio precisare, si verifica secondo i vecchi dettami della FAA e della NASA, e questo comunque lo possiamo trovare anche su documenti cartacei precedenti al 90, si verifica in talune condizioni fisiche, ovvero ci deve essere una temperatura almeno vicina ai 40 gradi centigradi sotto zero, ci deve essere un'umidità relativa almeno al 70%, e comunque questo fenomeno si può verificare, se si verifica nel 2,8% dei casi, è stato calcolato, sopra gli 8.000 metri. È chiaro che se noi vediamo volare un aereo dentro un cumulo e rilasciare una scia che viene spacciata per scia di condensazione a quella quota, sicuramente non si tratta appunto di condensa, non si tratta di vapore acqueo, ma si tratta di ben altro. Allora, abbiamo quindi definito cosa sono queste scie chimiche. Siamo molto incuriosite, per esempio, in Italia, dove che si verifica di più questo fenomeno? Questo fenomeno si verifica in tutti i paesi che appartengono alla NATO, ma non solo, si verifica anche in Cina, in Russia. Senza dubbio è un fenomeno che possiamo osservare laddove ci sono anche tratte di aerei commerciali, perché non bisogna mai dimenticare che da alcuni anni a questa parte vengono additivati vari prodotti, quindi tra questi c'è per esempio lo Stadis 450 che contiene parti di bario che serve per le comunicazioni radio, per trasferire il segnale più facilmente, e per quello che poi queste scie chimiche le possiamo chiamare nubi di bario. Lo Stadis 450 è un additivo che si usa per gli aerei commerciali. È vero che ci sono aerei militari che volano a bassa quota, ma è anche vero che da alcuni anni a questa parte anche gli aerei di linea, che prima non emettevano scie visibili se non in rarissimi casi, adesso comunemente lasciano delle lunghe scie, spesso persistenti. Voi avete analizzato da cosa ci risulta, o qualcuno per voi lo ha fatto? Sì, non solo noi, le analisi sono centinaia nel mondo. Cosa ne è venuto fuori? Tutte queste analisi confermano la presenza di metalli pesanti, quali in principal modo alluminio, bario, manganese, ossido di titanio, ferro, rame e chiaramente anche la ricaduta di polimeri, i cosiddetti polimeri di ricaduta, che spesso vengono spacciati per tele di ragno volanti, ma che in realtà sono i vettori per questi metalli, affinché si eviti che i metalli ricadano velocemente al suolo. Allora questi polimeri servono non solo come vettori e quindi fungono da sistema di trasferimento in quota per diverse ore, 24, 36, 48 ore prima che si ricadano al suolo, ma servono anche per contaminare i terreni, perché non è un caso se questi polimeri di ricaduta si osservano in grandissime quantità durante i periodi di aratura dei terreni. Allucinante. La cosa che mi fa più rabbia è che poi basta una settimana che non piove e ti dicono da questo sabato e domenica lasciate le macchine a casa. È la cosa che mi fa veramente. Poi anche questo è un fattore rilevante, perché le colonnine di osservazione per i PM spesso e volentieri misurano fino a PM10, mentre invece qui si tratta di metalli nanoparticelle che possono essere considerate PM02, per cui è chiaro che l'inquinamento automobilistico ha importanza rilevante, ma gran parte dell'inquinamento da metalli pesanti avviene senza che nessuno ne abbia assolutamente la consapevolezza, perché le colonnine che servono a misurare i PM in atmosfera non misurano al di sotto dei PM10. Poi c'è da dire anche che comunque certe osservazioni, come quantità di bario nell'acqua potabile 8 volte superiori ai limiti ammessi dall'OMS, sono stati riscontrati negli acquedotti di diverse cittadine in Italia, e quindi non è vero che le analisi sono state condotte da privati e per questo quindi non sono affidabili ed attendibili. Sono analisi che sono state condotte anche dagli stessi comuni, certo. I quali però o perché non sono consapevoli oppure perché non hanno il coraggio di denunciare le vere cause di questo inquinamento da bario e da alluminio nelle acque potabili, non fanno nessun riferimento alle irrorazioni chimiche. Allora, proprio in tema con l'argomento, adesso mandiamo Spirit in the Sky, che ben si capisce, Dr. Andy Maddox. Continuiamo poi l'intervista, rimanete con noi e il signor Marciano. Signor Rosario, quindi abbiamo parlato di questi aggregamenti di polimeri che probabilmente sono quelli che conosce la gente come capelli d'angelo, bambagia silicea, me lo conferma? Sì, spesso vengono spacciati per tali, ma c'è da dire che dalle analisi che sono state condotte sia negli Stati Uniti, sia in Germania, sia in Italia da diversi biologi, questi polimeri non contengono proteine. Quindi non contenendo proteine è ovvio che non sono di origine animale, per quanto vi sia stata una sorta di equivoco di base che è stato sfruttato molto, molto bene da parte della disinformazione, in quanto questi polimeri sono biocompatibili, quindi sembrano essere di origine biologica, ma non lo sono. Sono in realtà stati prodotti per poter essere assorbiti dagli organismi viventi. Quindi a questo punto mi permetta, niente di extraterrestre. Niente di extraterrestre, anche perché la bambagia silicea degli episodi degli anni 50-60 era completamente diversa da un punto di vista chimico-fisico. Benissimo. Noi abbiamo carpito dai vostri blog che ci sono stati numerosi tentativi di debunkers di smontare queste tristi verità. Sì. Può citarcene qualcuno? Ma diciamo che in linea di massima quello che è il compito del disinformatore per oggettive difficoltà non è tanto confutare le affermazioni che vengono fatte sul nostro blog ma anche su altre fonti. Quanto quello di seminare informazioni che tendano a creditare il soggetto che espone certi fatti, perché laddove non v'è la possibilità oggettiva di confutare con delle realtà oggettive delle affermazioni, è chiaro che si tenta a discreditare, come insegnano tutti i servizi segreti, colui che dice queste cose. Quindi veniamo definiti pazzi, truffatori, ladri, approfittatori, tutte cose che chiaramente puntano a screditare chi opera in questo ambito, e non è una cosa che riguarda solo noi. Il fatto è che noi siamo sopravvissuti a tutti questi attacchi che si sono susseguiti e si susseguono ancora oggi, mentre ci sono altre decine di ricercatori indipendenti, soprattutto in Italia, che si sono defilati o che addirittura sono passati dall'altra parte onde evitare di essere fagocitati da queste campagne di discredito. A noi a un certo punto abbiamo detto non ci interessa, perché l'importante è che venga fuori la verità, poi le persone che ci conoscono sanno se veramente siamo dei truffatori. Sono Rosario, buongiorno. E quindi? Sono Johnny Bravo. Volevo solo chiederle, praticamente il 2012 ce lo cerchiamo noi, giusto? Ma il 2012, rendiamoci conto che è solo una data sulla quale spesso si specula per scrivere o per realizzare servizi televisivi. Questo in realtà il 2012 è già qui e potrei dire che è iniziato nel 2001, quando vi sono stati gli autoattentati dell'11 settembre, esatto. E gli altri attentati che si sono verificati a Londra e a Madrid e anche in altre zone. Il 2001 è stato la data d'inizio, diciamo così, di un programma di, come di si autodistruzione. Dice, se si volesse rivoltare un calzino, quindi certo. Se si vuole instaurare un nuovo ordine mondiale si deve cominciare a piccoli passi cercando di terrorizzare la popolazione, e diciamo che il 2012 potrebbe essere semplicemente una data così di riferimento, ma in realtà il progetto è partito già da tempo e chiaramente avrà una sua conclusione. Se poi questa conclusione avverrà quest'anno o nel 2013 o poco più in là, poco importa. Il problema è che siamo già all'interno di questo progetto che definisce una data nella quale fare entrare la popolazione e tutte le civiltà in un ambito di vita completamente diverso da quello che conosciamo oggi. Ma secondo lei il futuro come lo vede? Grigio. Grigio? Io lo vedo non grigio ma nero. Nero addirittura, ah. Mamma mia. Siamo ottimisti, qualcosa succederà. Nel frattempo facciamo un altro stacco musicale e rimanete con noi perché parleremo della tossicologa statunitense Hildegard Staninger con il signor Marciano. Radio Lupo Solitario. Allora, okay, parlavamo di questa tossicologa statunitense Hildegard Steininger, che sarebbe una delle poche che, oltre a studiare questo fenomeno, si è esposta fino in TV rilasciando inquietanti dichiarazioni. Di cosa si tratta? Non è solo lei, ci sono anche altri suoi collaboratori e anche altri ricercatori staccati da un punto di vista del collegamento stretto con la Steininger, che affermano le stesse cose. Per esempio c'è il medico Michael Castle, ma anche il suo omonimo senatore degli Stati Uniti, quindi non è la sola. Chiaramente la Steininger ha fatto degli studi sui polimeri, che non solo sono i polimeri di ricaduta, ma anche un incrocio dei dati con i polimeri di fuoriuscita dai pazienti malati di morbo di Morgellons, e ha visto che c'è una affinità particolare tra i polimeri di ricaduta delle chemtrails e i polimeri che fuoriescono dalle ferite dei malati di Morgellons, cioè c'è una coincidenza perfetta da un punto di vista sia strutturale al microscopio, sia da un punto di vista fisico-chimico di questi polimeri. Per cui si tratta, chiaramente, quando si parla di morbo di Morgellons, di una manifestazione che può essere definita nanopatologia, siccome noi respiriamo continuamente o ingeriamo con l'acqua, con il cibo, nanoparticelle che appunto possono essere ben definite di origine nanotecnologica e appunto in gran parte polimeri a base di carbonio, ecco che si verificano degli stati di nanopatologie che possono manifestarsi attraverso una di queste malattie, che è la più terribile che ad oggi si conosca, che è il morbo di Morgellons. Sempre più inquietante, Sam? Io volevo farle una domanda: ma perché una cosa così devastante per tutti dovrebbe essere addirittura mistificata, occultata o addirittura negata? Chi gestisce questo programma che coinvolge migliaia di apparati mondiali? Ma proprio per questo. Tanto se noi mettiamo, come diceva Edgar Allan Poe, se poniamo un oggetto in vista, è il modo migliore per nasconderlo. Quindi noi le scie le vediamo nelle pubblicità, nei cartoni animati e nei videogiochi, cosa che 5-6 anni fa non esisteva. Quindi adesso si fabbricano degli spot pubblicitari o delle sequenze video appositamente con delle belle scie messe in bella mostra. Quindi questo, se prima non accadeva, c'è un motivo. Evidentemente deve essere inculcata nella popolazione a livello subliminale l'idea che le scie in cielo siano una cosa normale. Esatto, la fuori di inculcare. Ovviamente si nega pervicacemente una realtà di questo tipo, proprio perché se fosse semplicemente una leggenda metropolitana potrebbe essere tranquillamente ignorata. Ma se c'è talmente tanta insistenza e impegno da parte di alcuni network o da parte di alcune associazioni a negare questo fenomeno, chiaramente c'è da preoccuparsi, perché laddove si nega in questo modo, evidentemente c'è qualcosa da nascondere. Sempre detto che la televisione è falsa, comunque ti metto sempre di quelle cose in testa, te lo fanno rivedere sì, fino a che ti convinci. Certo. Questo poi è veramente criminale quando si vedono dei libri di testo per bambini dove le scie chimiche vengono spiegate come scie di condensazione. Sì, se noi vediamo i vecchi testi delle elementari e delle medie, non troviamo nulla che faccia riferimento al fenomeno della condensazione. È chiaro. Anche questo sembra evidente. Ma ha mai pensato, signor Marciano, che ci possa essere una spiegazione sensata, un bene superiore da tutelare? Ma queste sono informazioni che vengono, come noi avevamo previsto già qualche anno fa, diffuse da poco tempo, ovvero laddove non si riesce a negare un'evidenza si cerca di spiegare che è per il nostro bene. Bisogna dire che da un lato la NASA aveva fatto degli studi sulle scie di condensazione evidenziando come queste aumentano l'effetto serra. Certo. Dall'altro lato adesso ci viene raccontato che le scie servono per limitare l'effetto serra. Addirittura. Allora c'è qualcuno che evidentemente non coordina bene qui a quanto dichiara, oppure pensano che la gente si dimentichi quello che viene dichiarato in un tempo e poi all'opposto dichiarato in un altro periodo. Chiaramente queste emissioni di metalli pesanti non fanno bene alla salute, perché sono cause di neuropatologie, tumori in primis, ma anche patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. Sì. I metalli pesanti non fanno bene alla salute. Assolutamente. Quindi mi potrebbero anche dire che fanno bene al clima, cosa che comunque non è, perché il sole viene oscurato pedissequamente, ma non mi possono far credere che questi metalli che noi respiriamo e ingeriamo possono far bene alla salute. Assolutamente. Le corsie degli ospedali sono piene di gente anche giovane con tumori e neuropatologie collegate alla dispersione di metalli. Signor Rosario, ma per quanto riguarda invece il buco nell'ozono, adesso non se ne parla neanche più, è vero? Beh, il buco dell'ozono fu creato a causa delle esplosioni nucleari in atmosfera. Sì, questo non c'è niente, la storia dei CFC è completamente falsa. I CFC, cioè i clorofluorocarburi, furono eliminati dal mercato perché stava per scadere il brevetto, non perché erano dannosi per il buco d'ozono. Chiaramente l'ozono è stato distrutto per tantissimi motivi, ma non certo a causa delle attività umane, piuttosto a causa delle attività militari. E allora noi disperdiamo queste scie e le mandiamo via nel cielo con Lenny Kravitz. Eccomi. Dunque, una delle ultime domande è: cosa possiamo fare noi comuni mortali per fermare questo scempio, questa genesi? Ma non vorrei essere, non vorrei autocitarmi e autoglorificarmi, ma ci vorrebbero tanti marciano, cioè sì, ci vorrebbero tante persone che facessero, non dico in modo uguale, ma comunque con grande impegno, informazione, perché chiaramente se non si fa informazione la massa non conosce il problema. E i governi, perché parliamoci chiaro, questo viene finanziato anche dai governi, vorrei mettere aprire una parentesi, quest'anno il governo ha secretato la spesa di 550 milioni di euro per spese militari, per le quali non si può sapere quale è stato l'obiettivo. Però, e teniamo conto che ogni giorno di violazione in Italia costa circa 19 milioni di euro. Però, per cui sono soldi che vengono sperperati sulle spalle dei cittadini che pagano le tasse, per cui io penso che se i cittadini fossero tutti consapevoli di quello che sta succedendo, non solo da un punto di vista economico ma anche dal punto di vista della salute, sicuramente i governi sarebbero costretti a ritirare quello che stanno attualmente facendo. Hai capito? Praticamente osservo per esempio che in Egitto nei giorni delle manifestazioni di piazza le irrorazioni si erano interrotte. Chissà come mai. Praticamente come diciamo mai. Che il governo gode sull'ignoranza di noi umani, giusto? Esatto, di noi umani, noi di noi comuni. Cittadini che serviamo ad essere spremuti fin quando possiamo pagare le tasse, e poi quando finiamo che abbiamo bisogno di qualche cosa e finiamo in un ospedale, poi veniamo abbandonati se non abbiamo più da pagare i contributi. Senza nessun escluso, compreso i figli di questi roratori, naturalmente, che è il controsenso più grande. Ma chissà, io penso che sicuramente, come avevo da informazioni dirette da un militare, i militari sanno come preservare la salute attraverso prodotti specifici tipo i chelanti, quindi loro sanno evidente. Poi teniamo conto che la maggior parte di questi aerei che volano a bassa quota sono pilotati da remoto, non sono pilotati da personale di bordo. Hai capito? L'inquinamento sempre globale ci coinvolge. Praticamente tutti. siamo proprio male, siamo. Sì. Siamo messi male. Messi molto male. Complimenti, vergognatevi. Gente che prende 20.000 euro al mese, vergognatevi. Esatto. Quindi, riassumendo praticamente la giornata di oggi, caro Charlie, facciamo il sunto della situazione. Sì. Quindi sistema ARP che usa le scie chimiche che ci bombardano di queste sostanze tossiche, ci avvelenano. E quindi il punto della situazione qual è? Visitare il sito sicuramente di Rosario Marciano. Ricordiamolo benissimo, bravo. www.tankerenemy.com, scritto con la K centrale. È importante anche segnalare il canale video dove ci sono diversi documenti video che provano diciamo quanto viene affermato. Sicuramente tanker-enemy.tv è ci sono più di 300 video, un ottimo archivio di immagini e documenti relativi a queste operazioni che possono comprovare quello che viene quotidianamente scritto sul blog. Perfetto, molto bene. Quindi andate a fare una sbirciata, andate a controllare questo sito veramente. Allora, a questo punto è il momento dei saluti. Io, signor Rosario, veramente la ringrazio, è stato gentilissimo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Spero di averla nuovamente in trasmissione. Quando volete, io ringrazio voi, ringrazio la redazione per questo impegno, perché è una dimostrazione di coraggio. E invece noi ringraziamo lei, che ci abbiamo un angelo custode. A presto, alla prossima, signor Rosario. Grazie. Salve. Saluti, signor Rosario. Pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sonno. Gli ordini che ricevevo.